stima di voi. Ma Gesù Cristo ha stima di noi? Che l'abbiamo tante volte dimenticato, offeso. Ha stima di noi. Una stima incorruttibile. Per quanto io sia cattivo e voi siate cattivi come me, la stima che li ha per noi è incorruttibile. Tra noi a volte facciamo presto a perderci di stima, vero? A volte anche per motivi ridicoli. Com'è che hai perduto la stima di tua moglie? Perché in momento di luna mi ha risposto male. Per così poco perdi stima della tua moglie. E tu, papà, perché perdi la stima di quel ragazzo perché una sera, una notte, ha fatto, non so, il gradasso? Ma guarda quante altre volte ha fatto il bravo. Noi facciamo così presto a perdere la stima l'uno dell'altro. Basta una paglia, un niente. Perché ci perdiamo la stima e non ci guardiamo più negli occhi con fiducia. Ah, ma Gesù Cristo ha una stima di noi che è invincibile. Per quanto abbiamo fatto i gradassi e per quanto siamo ancora capaci di fare peggio, la stima che ha per noi gli fa dire: siate perfetti come lui, il Padre. Ci presenta come meta una cima che si perde nel cielo. Siate perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. E quando diceva queste grandissime parole, chi aveva davanti? Gli angeli? Creature umane? Bambini innocenti? Qualcuno. I più erano adulti. Adulti, galantuomini, e di tutto c'era in quel momento. C'erano persone che facevano sul serio, che vivevano la vita onestamente, ma molti altri che si trascinavano gobbi gobbi sotto il peso dei loro vizi, che schiacciano più di qualunque malattia fisica. Aveva davanti folle di persone pressapoco grossolane, grottesche, villane, rotte a tutti i vizi, e davanti a questa ciurmaglia e gli dice: siate perfetti. Chissà come sono rimasti di stucco tutti quelli. Ma come? Tu, Gesù di Nazaret, tu, il Galileo, tu osi proporci una meta così massimalista, così alta? Ma sai che siamo mezze cartucce, sai che siamo tutti anchilosati nell'anima, ma sai che io ho rubato, io ho ammazzato, io ho imbrogliato. Zitti, zitti, lasciate parlare a me. E alzando gli occhi su quelle miserie, il Maestro disse ancora: siate perfetti come il Padre vostro celeste. Che stima ha delle nostre persone? Stamani vi ho ricordato Alferio, uomo politico, che sente questa proposta a 72 anni. Ah, ma ce n'è della gente che a 72 anni fa sui fagotti. E a volte sono fagotti pieni di cianfrusaglie, di miserie, di peccati, di colpe. E anche Alferio era uomo di carne e ossa, carne inferma. E a 72 anni sente questa proposta, come rivolta a lui, vecchio, 72 anni, e dalla condotta ambigua, 72 anni di vita ambigua. E si sente dire: Alferio, sii perfetto come il Padre Eterno. Perfetto, io, all'età che ho, con tutti quei groppi, quei nodi, quei pasticci della mia vita. E sappiamo l'esito. Quella proposta non cadde nel vuoto. Alferio se la prese, prese la palla al balzo, si attaccò a quella proposta e divenne quel grande santo Alferio, fondatore dei padri benedettini, ramo di Cava dei Tirreni, e campa fino ai 120 anni. Come a quel rifiuto di Mat Talbot, l'ubriacone di Dublino, la stessa proposta. Sì, perfetto. Tu, ubriacone, alcolizzato, bestemmiatore, scandalo del porto. Sì, perfetto. Come è perfetto il Padre Eterno. E quello straccio di uomo che faceva ribrezzo a tutti prese la palla al balzo e divenne servo di Dio, il santo delle catene, il santo di Dublino, che dall'osteria, dai vizi, passa agli altari, dal peccato alla gloria. Ha preso la palla al balzo. E quanti nostri fratelli e sorelle, che ora invochiamo come santi e sante, hanno fatto lo stesso gioco, hanno preso la palla al balzo. Eppure, guardando se stessi, sentivano schifo di se stessi. Ma lui ha una stima invincibile per noi e nessuno di noi gli fa ribrezzo, gli fa schifo, nessuno. E appunto per questa stima invincibile che ha di noi, ha osato proporci la santità. Siate perfetti, mirate al massimo, mirate al massimo.